altre volte già sono andato un bel spesso, ma quella volta lì praticamente sono andato una volta sola quando era finita la casa, ma bella, c'è cioè, tutto quello che mi ha trovato Valentino, bombe di bani, c'è lavatoio, poi è fatta anche troppo grande per i gusti miei. Ci vediamo, ci sentiamo, perché lui è un bravo elettricista e quindi ci ripara gli isolatori di portata, li tara, capito? E l'altro giorno sono andato in ufficio da lui, infatti me l'ha detto. Ma me ma sempre parlando stava, e ho detto, Gianni sempre c'è, ma Gianni tutti i giorni, salutamelo. Poi oltre è di mare buono, dico la fritta, non sa fare un elettricista. Tu immaginati che quella casa lì ha fatto una volta lui, ci ha fatto prestare la palancanica dalla ditta e ci ha fatto le fondamenta. Ogni giorno quando trovava da lavoro Monica non lo voleva nemmeno, andava direttamente per la casa, non mangiava nemmeno, fatti un conto. Poi le durava tutto quanto brutto, si faceva il bagno, tutto quanto per mangiare. Ma mi ha detto Antonio che lui l'unica cosa che ha fatto fare agli altri è il tetto, perché il tetto solo ce la faceva fare un gesto, tutto quanto. Però per tutto il resto della casa ha fatto tutto il piastrelle, ha messo i sanitari, ha fatto tutto il viale illuminato, tutto la cosa ha fatto. Lo so, no, ma è bravo in tutto, di carattere, di persona, onesto, sincero, grande lavoratore, grande tecnico, abbiamo lavorato assieme, figurati, con l'impresa, con i depuratori, quando lui era Canica Vecchio. Poi c'è stato il passaggio al comune dell'impianto di Canica e quindi siamo passati tutti in Sinos. Poi è arrivato questo carrozzone, lui ha deciso di rimanere lì per mille motivi e io me ne sono andato con la multinazionale. E così, ma è un bravo, siamo sempre in contatto, abbiamo gli stessi livelli, gli stessi diritti, abbiamo tutto uguale. Lui però è qua in ufficio a Sassari, invece io sono in giro per la depurazione. Ma è una bravissima persona, proprio con la S maiuscola, veramente ci fa pezzi quando lo chiamo, che ho problemi, mi dice subito, smonta, non stare lì a rompere le scarpe, tanto ma sei impegnato, non ti preoccupare, tu smontalo, portamelo in ufficio, io me lo controllo, poi quando è a posto te lo richiamo, passi e te lo riprendi, cioè non mi fa perdere tempo, capito? Ma te non lo sai come l'ho conosciuto io, te la racconta? No, negativo. Siamo conosciuti al baracchino con Antonio, ma ti parlo di 30 anni fa. Lui si chiamava Sambuca, io lo più rumo. Immagina, di due alcolici. Poi abbiamo parlato, toccato tutti e due, abbiamo il nome di un liquore, eccetera, eccetera. Ma dove è scritto? Io gli ho detto, io l'agraria. Anch'io sono l'agraria. Tutte le ore insieme, ero sempre in campagna sua, ma siamo diventati amici per la pelle, proprio siamo stati la stessa greffa, ne abbiamo passato di corte di cure insieme, siamo cresciuti insieme praticamente con Antonio. Sì, già mi ha detto che vi conoscete da un sacco di tempo. Noi siamo conosciuti al lavoro, ci siamo conosciuti al lavoro con il depuratore sarda. Lui era all'impianto di Canica, io invece ero a Nulvi, tutte quelle zone. E poi praticamente abbiamo terminato con l'impresa e siamo entrati, ma quindi dal 93 ci conosciamo. Dal 93 ci conosciamo con Antonio, ma ti dico che è una persona veramente in gamba, a differenza di tanti altri che stanno lì con la puttana sotto il naso. Antonio non ti fa pesare niente perché in parte elettrica e strumentazione diciamo che è il più bravo di tutti. Ce n'era uno più bravo di lui e è andato all'ERSAT e lui è rimasto lì. Ma in strumentazione non c'è niente da fare. qualsiasi problema hai, tu chiami a lui e se te lo può risolvere al telefono te lo risolve, altrimenti ti dice smontami il petto e portamelo in ufficio, lì in via Leadua, e te lo sistema, capito? Una persona veramente, veramente in gamba. Augusto Fuis. Ehi, Rodriguez. Augusto è stato il mio capo settore quando ero in ESAF, quando ero per Fugas. È stato il mio capo settore, grande perito chimico, poi si è laureato in leggi. Adesso praticamente è funzionario legale, lui non sta più esercitando come perito chimico. Augusto, cosa sarebbe la famiglia? Portavo Augusto, troppo, troppo, troppo. Ce n'è un bel con la gente lì. Augusto lo stesso, di quella categoria, di quando l'ho conosciuto io, che lui era responsabile tecnico, non ce n'è per nessuno. Anche lui non ti faceva pesare niente. Quando c'era un problema ne discutevamo assieme, se c'era una cosa che doveva spiegare te la spiegava, soprattutto come chimico. Veramente in gamba, poi l'hanno mandato responsabile settore a Macomer, lì si è rotto le scatole perché era lontano, era qui, era staccato la famiglia e si è messo a studiare, si è laureato in legge e adesso sta facendo praticamente il funzionario legale. C'è l'ufficio in via Principessa Yolanda lì a Romanoa e rimane in ufficio, non sta più andando da nessuna parte. E la moglie è la stessa laureata, Lisa, la stessa, la moglie di Augusto deve fare con noi. Certo, sì, infatti. Sono tutte e due laureate, conosciuti, abbiamo fatto anche dei bellissimi spuntini quando ero a Perfuas, che c'era una bella sala col caminetto e facevamo dei bellissimi spunti in estate, una bella mangiata di pesce, abbiamo invitato un sacco di volte. Ma Augusto, ti ripeto, di quelle persone se ne trovano poche, perché sai, quando c'è un ruolo così alto come ci aveva lui e come c'è attualmente, si montano subito lo gabo, pensano di essere chissà chi. E invece con noi soprattutto conduttori, che siamo quelli che mandiamo avanti tutto il baravan nell'arco delle 6 ore 40, è veramente una persona che si fa rispettare, ma soprattutto ti rispetta veramente, una persona educatissima. Un pezzo di pane, è stato sempre così, un pezzo di pane, K.A. E praticamente Ugo, quello che abitava nel comparato che lavora a Lene, quello lì è il grande amico di Augusto. Eia, Ugo si è abitato anche da me, collega di Fabrizio Tece. Ecco, quello lì è con lui, eravamo sempre insieme con Augusto, perché sono tutti figli di Tranviri, abitavano tutti via Baldetta, proprio alla fine quelli dove c'è Capolinia lì, abitavano tutti, che via è, via Muros, non via Mores, è via Muros. Abitavano tutti lì e qualche volta siamo andati a sbottare i motori di macchine e cose, a fare lavori. Avevano una greffa tutta organizzata che si faceva la macchina, lui che la portava al meccanico, non la faceva niente. Ma tutto lì si faceva, face, tutto là. E uno lo stesso, uno c'era la mani d'oro. Sì, beh, dove abitava a Torre, quella era la cooperativa dei ferrovieri, no? No, non dove abitava a Torre, Torre abitava dietro, sì, ma prima, allora, in via Baldetta c'è un'insenatura sulla destra, prima di arrivare a Capolinia, c'è un'insenatura sulla destra, e se guardi già lo vedi, via Muros, eccola lì, abitavano lì tutti qua, allora, tutti in gran famiglia. Ah, ho capito, sì, dove c'è l'edicola, dove c'è quella piazzola dell'edicola. Come spiegate, c'è un negozio alimentare vicino. C'è una traversina chiusa poi, capito? Che si entra dentro, una traversina piccolina che è praticamente nella via Baldetta, sulla destra c'è una traversina, si entra dentro. Abitavano tutti lì. E conoscevo bene la sorella di Ugo, tutti qua, tutti i familiari, andavano anche a casa sua, eravamo tutti amici, eravamo tutti a Savefa, a Piazza Castello, sotto il banco di Sardegna. che era buon'anima di Mario Mo, ci faceva le fotografie, se li vedeva a Ciuppelli mi puntava il faro, è avanzato. L'ho conosciuto a Mario quando era in servizio, anche dei occhialini neri, mamma mia, vedo Mitra sempre al collo, a volte ci faceva un po' paura. Lo so. Guarda, ti ripeto, in quegli anni si poteva fare tante cose, ora non si può fare più nulla. Questa è la rapida che hanno fatto ieri a Sassari, 100 milioni. Ehi, 100 mila euro? Ehi, già lo so, sì. Lo conosco di vista quel signore. Anche sulla vetrina, se no ne pigiava le bulgisce per la vetrina, non mi accorgisce per la rilassata. Sì, però io non riesco a capire questa gente, no. Sì, ma non se ne sentiva una di rapina, sa, era una cosa che si sta sentendo molto di più, molto di più, di omicidi nelle case, questo e quell'altro, prima non se ne sentiva nulla, è proprio No, o c'è la informazione oppure non lo so, ma così tante di rapine, di cose, quello lì che ha sgozzato a quell'altro, è una cosa allucinante. Ma di Massimiliano. Ciao, buonasera. Ciao. Mi sono in fuga. E allora? Allora, anch'io. Direzione stessa, io, non mi assurdo. Io sono lì punti però, sono lì punti, mi sono a casa del cugino di mia moglie e ci sono le donne che stanno cucinando, lui è andato a farsi un po' di camminata, quando torno a lui entro io, se no cosa ci faccio, tanto lo farò chiacchierare tra di loro, cosa vi vuoi? Oh Massimiliano, come me non è radio? Non c'è radio? Solleva. Come sollevare? Adesso ti sento meglio, poco fa non è in basso di modulazione. Ah, perché ce l'ho buttato dalla bocca, guarda adesso dov'era. No, adesso già va bene. E questa la Silvia? Bernardo, 4005, anch'io sono di più. Per quello io che ti sentivo bene anche prima, probabilmente Claudio non ti sentiva forte perché sei lontano là da lui. Ma i due pattoni della polizia li sono passati, Ma non lo pensi tu, Giorgio? Io sono esattamente dove c'è la Ecom, cioè vedo dove bruciare, dove c'è la festa di Sant'Antonio. Ah, vabbè, c'è la moglie. Sono in quelle villette lì. Quanta gatta. Dove stanno da Suzzara? Ah, posso rinunciare, sì, lì. Cabagatta. In tournée, piazzato tutto stasera e ho fatto l'impianto nella macchina, tanto non si muove l'ago da nessuna parte, che già non rilascio, non sta ancora, è brutto. Già va bene, ti sento fondo la scala, poi sta passando davanti a me adesso. Io sono fermo, sì. Poi c'è la coppia qui, del bar del murale. Ci sono a due passi, Andare. E te l'ho piaciuta fissa la antenna, Massimiliano? Sì, positivo. Ma questo lo volevo fatto passare sotto il cielo? Via. Quindi un bel travaglio. Non è fatto un bel po' la perfezione, un bel rondellone sotto, capito, fatto bene, no? Ma c'entro l'hai messo, Massimiliano? No, claro, ho tolto con l'antenna, quella satellitare che tanto era attaccata, hai capito? Dietro dove c'era quell'antenino là, quello tipo squares. E che antenna è messo dietro? La PLC 800. No, va bene, ma si media. Tornavo 4005 con 5-6 watt, avrà microfono amplificato. Allora, io volevo salutare là che è arrivato il cugino di mia moglie, se la faccio figuraccia. Ci sentiamo, ciao Claudio, ciao anche a Massimiliano, auguroni, buona Pasqua, se non ci sentiamo più tardi. E tante cose belle, ciao! Già, lasciata accesa l'hai quella là? Cosa? L'altra, lasciata accesa l'hai, ho spenta. così. Mamma mia, che è. Vabbè, dai, domani ci fa due regolazioni. Ciao, buon tutto, ci aggiorniamo domani, dai. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, alle prossime. Ma cosa ti ha detto Daniele? Non ti ha detto niente per quel palo di luce. Mamma mia, non è piacere. Beh, vedi tu, ma io ho compreso, vedi tu. Forse è stato al centro, ma lì in coda questo palo di luce, lì devi mettere un'antenna più piccola, ma ci vediamo. Una Minox, tanto per quello che la usi tu, una Minox devi mettere, ma quella è troppo grande. Mamma mia, guarda, non la voglio vedere. Così sì, è una grande. No, devo prendere la mini turbo per qua, pianta, la prendo, piccolina, bellina, l'abbiamo provata quella di Gianluca, è carina anche da vedere, dai. Ma vedi tu, uno aveva un'antenna uscicotta, uno aveva il subbaro di Rudy, capito? Sarà funzionale, bellissimo impianto, ma per carità, non vuoi visto, Dodo Rabbia, anche se non è stato tutto, ne può tutto. Ma ci vediamo, non sai, io parlo per quello che penso. Io non avrei mai fatto un lavoro del genere. Prima avrei comprato l'antenna in macchina, in quella macchina lì ci sta benissimo, perché è alta, è grande, ma non così lunga. Dovresti mettere tipo quella che aveva Fabrizio, quella la 800 Minox o come si chiama, boh, non lo so, quella che c'è la spiraletta, insomma, bellina. Adesso facciamo questo, penso con questo. Vabbè, l'attacco intanto sono tutti uguali. Già trovare l'800, lo stilo dell'800 Minox e metterglielo, capito? Ed è a posto. Ho voluto mettere questa moto perché avevo pensato di mettere la mini turbo, capito? Che è bellina, piccolina, la metto color bianca. Sì, la mini turbo, la 800 Minox, insomma, già hai capito quella lì. E le puoi mettere, le metti quella, capito? No, è positivo, sì. E adesso non devo mettere la mente. Passiamo lì. Anche io, hai visto, c'è quella frusta nera, con la base magnetica, è nera come la macchina. Se decido di rimettere, rimetto quello, con l'attacco a CD-Sig, la KB23, il microfono ce l'hai visto, preamplificato. Fa fare due giaceri quando sono in movimento, va bene, va benissimo. Però così grande, no, cazzo, così grande. Se vede a Mauro, allora può giù che si fa ragione. Io un volo, vado un'ambulanza. Ma poi con la, come si chiama, con la magnetica, diventa la magnetica? La magnetica diventa più grande, la passa a pagare, poi avanti e la di ogni canale. Ah, ma chi sei, ma roba un'ambulanza? Sì. Vabbè, ci vedi per te. Vabbè, quella non ci voglio pensare, perché quella Mauro è al centro, cazzo, la tua in coda. Quando cammini toccherà il paraurti. Esagerato. Ascolta, il comodo è sempre un maniero. Eia. Se mi ascolti, cla. Cosa? Se mi ascolti meglio. Non è grande. Se sono messo in movimento. Ciao, Daniele. Ciao, ti ha salutato. E' già vero, un microfono spento. Eia, va bene. Mamma mia, che voce triste che c'hai. E lo sapevo, io. È tutta una tavuriata. Non sarà incinta, non va niente. Allora, mi permette. Ah sì, non so così vedi. Così vedi, ma avanno è un periodo giusto. Sì. Dove mangiare? sei vecchio, frate, boh. Io sono un giovane. Ma sono giovane, Marsiglia. Mi dice, sto aspettando se mi danno, quello che ho chiesto. Li mando tutti a fare, capito? Mi hanno giocato di via, tranne le torre. Mi avevano detto che riuscivano a fibbiarmi questo scivolo per infortunio, perché oggi di servizio di 3 anni e 2 di militare sono 5, siamo limi, una pernetta solo me la devo fare, se no devo soffrire altri 6 anni, capito? Sono 35 fatti, tu immaginati che se non cambiavano la legge a gennaio del 2013 io ero già in pensione e invece me ne hanno fibbiato altri 6. Bussia. Cosa tu? Forse che sei in pensione, almeno hai più tempo libero da dedicare. Ah, tempo libero da dedicare a chi? Comunità, anche a me volendo. Ah, ma già sei Antonio, sì. Non te chi sono? Mi sembra Antonio, adesso col baracchino, dalla modulazione mi sembri tu. Vabbè, Gabba Roger, sono nella macchina di McCherry, nella macchina mobile di McCherry. Una cosa tristissima, Claudio. Nella macchina di... Ah, ho capito, sì. Saluto allora. E Antonio, la comunità, io mi sembra che ho già andato. Se mi lasciavano fare, avrei mandato tutti a fare in quel paese invece. Pazienza. Se non mi danno questi 3 anni più 2, vabbè, 2 di militare, li pizzico lo stesso, li prendo lo stesso in pieno. Però se mi davano i 3 anni, 3, 2, 5, sono 40 fatti, capito? E sono 40 anni fatti. Un altro me la davo in pensione a 41 anni di servizio, anche senza l'età invece. Bisogna morire, bisogna morire. Ma si vede, lo senti Antonio, macchina? Oh, state un attimino, sono un attimino in bassa, un attimo. Certo, è sempre in bassa, Antonio. Una volta che lo chiami, è sempre in bassa. Lui lavora col telefono, sarà qualche rompipale a dirle che nel condominio di via Cimbrana c'è un gatto morto. Vabbè, qua mi ascolti meglio? 19:30. Buono allora, va. Oi. Veramente Antu? Cosa ha fatto in pezzo questa chiamata? Ma ti ricordi Antu? Gabba Gabba, aspettate che sto riprendendo dalla stazione fissa, ma... Ehi. Capito? Antonio mi ha raccontato Massimiliano che un giorno l'ha chiamato un condomino alle 11 di notte. Siamo lì, si occupa. Si occupa ancora, credo, di amministrazione condomini. L'ha detto, guardi che nel pianerottolo c'è un gatto morto, salone di denuti, e non puoi pigliare questo è un cassonetto. E sciogato, e non puoi pigliare invece sulla mia telefono. No, perché bisogna avere quando è così due telefoni, uno per lavoro e l'altro privato. Sì, ma lo condominio burro, ma ne possiamo parlare domani, non è un problema, se no ti metti i guanti, prendi la scopa a parlare, se no con il gassonetto. Ho visto anche qua, è successo qualche volta nel piazzale che siccome ci sono un sacco di gatti, qualche cane magari, insomma, la cultura che è mossa e via, la ragazza in terra, lo trovi la mattina, non è che chiama l'amministratore, quindi la parla di cubo e se no con il gassonetto. Capito? O fai un fosso e lo sotterri, per meglio dire, no? Perché in cassonetto non si buttano queste cose. Ma non è che trovi una cosa del genere, chiami l'amministratore, poi alle 11 di notte, ma stai scherzando. Cazzo, mi avevo ubriacato, l'avevo buttato a terra, mentre la iatta. Ma cosa vuoi ti dica? Cosa ne so. Cazzo, alle 11 di notte e poi vai a chiamare un amministratore così per un gatto. E intanto non abbiamo alcun riposo, a voi. Devi sempre rispondere perché ci può essere un problema valido, un problema che chiaramente ti devono mettere al corrente subito, come è capitato a noi, si è rotta la colonna montante alle 11. minuti più tardi, erano delle 11, e stava allagando tre piani, quindi abbiamo avvisato subito l'amministratore, è arrivato e io già avevo intercettato e chiuso il torrino, però lui è venuto subito e immediatamente, cioè quelli vedi lì, è chiaro che deve essere avvisato subito chi è responsabile, però cazzo, per un gatto ti avrei mandato veramente a fanculo. Vabbè, positivo, positivo. Ascolta, chiedile a Antonio se quel 747 ce l'ha ancora o se lo deve vendere. Dove si è arrivato a casa che stava scendendo, poi glielo chiedo. Quello che ho fatto io, Antonio, non c'aveva la radio in macchina, funzionava molto molto bene, che c'aveva questa, non so se era la Minox, non ricordo che antenna era, quella piccolina, e hasta mi arrivava una bomba, è una cosa piccolina, così quando ti servo lo accendi, se no devo andare a procedere, capito? Beh certo, una cinquantina di watt, 80 watt, non è che devi, giusto per fare, no, io ne ho uno piccolo così, però è VHF. Se c'è qualcuno che fa cambio, se sento Antonio, quello di Inti, glielo dico se le serve, se c'è qualche 747 così piccolino o vannino, lo faccio il cambio, tanto io quello non lo uso, ho una cinquantina di watt. È giusto un aiutino, anche se va bene questo paracchetto, ma sai, tra volte. Poi mi sta ascoltando adesso, sì? Sì, sì, allora grande. Ma ti credo, sto entrando a Sassari. Sto entrando a Sassari. Di qua è via l'Italia solo, là, di fronte a Monserrato. Gava, gava. Adesso tanto mi fermo qua un attimino, la cola. E scendo. E Gaia come sta? Grazie a Dio, adesso già siamo andati a bene. Esce che mi tocco. Quindi è contagiato a Daniela, dici? Non è che l'ha contagiato, sta incubando qualcosa e hai capito. E magari non si sente molto bene, è tutta sconvolta. Maledetto questo virus che c'è nell'aria, ma poi anche il tempo, mi adesso io avevo la giacca rattuta, mi ha giugata, mi sono 24 gradi e qualcosa qua, stavo morendo dal caldo, quindi mi sono messo maniche corte, poi esci e c'è freddo, capito? È positivo, è proprio così. Oh Claudio, dammi qualche minuto che devo scendere qua, no? Sentiamo dopo, sempre Antonio, chiediglielo se di quella cosa lì. Sentiamo, a più dopo. Va bene. Allora, 1, 2, 3, 4, prova. 1, 2, 3, 4, 5, prova radio. Vai. Oh, guarda questo... Io mi sono dimenticato che avevo questo barattino Zodiac M50-34, 40 canali dentro l'armadio. E lo sto provando con quel microfono che ho fatto vedere a te, non va bene per la macchina? No, è claro, buonissimo. Vabbè, adesso c'è anche un movimento, ma ti sento benissimo. Oh, va bene, no? Questo è un baracchino 40 canali, non so se 40, 34, e praticamente il microfono è quello da palmo che ti ho fatto vedere, dai. Già va bene, è amplificato un po'. Ma voglio va bene, deve fare i buchi. Stavo provando il connettore del Turner, ma già riesco a farlo andare, a vedere. Già riesco a farlo andare, devo mettere l'adattatore a vedere se va bene, giusto per provarlo. Ti dirò che già con quello va bene. Antonio, sentito l'hai? No, negativo, Antonio ci sei. Attento il grote. Papà, ero sul 10. Ah, allora è tu che mi stavi ammazzando. Allora, ci deve essere qualcuno sul 5. Sto provando un baracchino 40 canali M5034 della Zodiac con un microfono semiamplificato. Guarda Massimiliano, ti doveva dire qualcosa, avanti Massimiliano. Yeah, vabbè, tanto se c'hai sempre quel 747, se lo devi dare, cosa devi fare? 747, spero che non me l'abbiano rubato, perché mi hanno aperto, a dirti la verità non ho controllato, mi hanno aperto la cabrio giù in garage, mi hanno, ti ripeto, già rubato l'antenna, e se c'è assolutamente te lo do, fra l'altro me l'aveva prestato Claudio, quindi non c'è problema. Sì, sì, voilà, ok. No ragazzi, io vi lascio, che sto parcheggiando e ci sentiamo alle prossime, dai, dai. Buonanotte, buon tutto e ci sentiamo. Ho capito l'ultima frase a te, te l'ho prestato io te l'ho regalato, poi puoi fare i suoi tempiati. Ciao Massimiliano, ce la riascoltiamo. Allora, confermata questa radio, va per la macchina, già va bene. Scendi o no? Sì, sì, tanto non ci vado da coso, se vado nel pomeriggio, capito, a caso. Aspetta un attimino però. L'hai regalata, a prescindere che la trovi o meno, non è come gli dico già di no. Se me l'hai prestata è un altro conto. Te l'avevo regalata a suo tempo, avevo detto, no, io non le faccio niente, prenditela, quindi quello era un regalo, io ti avevo fatto a suo tempo, poi tu sei libero naturalmente, siccome Massimiliano ne ha necessità, poi tu sei libero, io non mi offendo, per carità. Sei libero di farne quello che vuoi, altro ci mancherebbe altro. Guarda Massimiliano, se vuoi ti posso dare un MB153, aspetta un attimino, aspetta. Guarda Massimiliano, mi serve una, come si dice, la manopola del canale, le ho messo l'affare del ferro da stiro. Se vuoi c'ho un B153 Massimiliano. Cosa tu? Uno ZG B153. Vabbè, allora una cinquantina di watt. No, questo ne dà 100. Vabbè, se boh, vedi un po' tu, fammi sapere quanto ne vuoi, cosa devi farne. Guarda, questo te lo semi in regalo, se riesci a... L'unica cosa c'era da cambiare un diodo. Positivo, ma perché non va? Andare va, e va anche bene, è sordo in ricezione. Poi gli era stata cambiata una bombina e meno male è stato poi rimesso a posto, dai. Andiamo bene, dai, vedi tu, se mi regalo cosa vuol dire? Fammi capire. Se mi regalo che non ti chiedo 200 euro, ma te ne chiedo 99. Ok. Va bene, dai, ci aggiorniamo allora. Fammi sapere cosa vuoi fare, quanto ne vuoi, quanto non ne vuoi, dai. Io me ne devo scendere, che Daniela se ne è già sceso, fatti il conto qui, occhio là. Daniela è già sceso. Niente, dai, ci sentiamo domani. Ricordatevi di cambiare l'orario. Ricordatevi di cambiare l'orario. E comunque per me se mi regalo vuol dire una birra, mi Massimiliano, non c'è problema, assolutamente. Comunque ti sento una bomba, non so dove sei, ma sei una bomboletta. Avanti Claudio. K è vicino a noi, dai. Ok. Ciao Massimiliano, ce la riascoltiamo, saluti a casa a tutti e ci aggiorniamo domani mattina, dai. Avanti Anto. Ciao Massimiliano, buona carica batteria, ci sentiamo alle prossime. Ciao, grazie, ciao. Zona Ginepro, là, per farti capire. E allora sei qua dietro. E allora sei qua dietro, riprendi Claudio. KK, vabbè, no, c'era dentro l'armadio questo Zodiac M5034, io ho il B5024 che è quello base, questo è un veicolare 40 canali credo, non l'ho ancora provato a far girare, con un microfono dinamico, diciamo di quelli con la rotellina, dai, amplificato, un microfono normalissimo, e quasi quasi per la macchina va più che bene, cosa ne dici? Però perdonami, ma sembra che stia un po' strappando, adesso non vorrei dire, io ti sto sentendo sui 27.105, aspetta un attimino, voglio vedere come sono, un attimo, fai un passaggio. Può darsi pure, non lo so, o che magari abbi sempre quell'affare inserito, ricordati, quello è una M, meno lo inserisci e meglio è Antone. Aspetta, fai un altro passaggio. guarda un po', questo sta uscendo con 3,5 watt, microfono diciamo quasi normale, il possibile che stia strappando, com'è? Guardi che non abbi l'NB inserito, che sia alto come regolazione, perché quella si può regolare, capito? Avevo un taglio di frequenza, aspetta un attimino che sono fuori comunque. Aspetta un attimino. Vieni avanti. Guarda a vedere, 10, 20, 30, 40, 50. No, sì, perfetto. Perfetto, perfetto. C'avevo il RIT inserito, era leggermente sfrequenziato. Poi c'avevo un taglio con lo slope can tune, ti tagliava un pochettino la modulazione. Gaba, gaba, va bene. No, ma questo è un misero, non so se 34 o 40 canali, te l'ho detto, della Zodiac, che 50, 34, io c'ho il 24 che è base. Il microfono è un dinamico da palmo normale, quindi Massimiliano mi ha detto che va bene per la macchina. Aspetta un attimino, ma cosa c'è? Batteria nel microfono, nel mic? Eia, c'è una batteria piccolina, beh, ma è un microfono del cavolo a 10 euro. Ciambala, è quella, lo sta rifacendo adesso, evidentemente c'è la batteria un po' scarica. Sì, sto uscendo, ciao a tutti, ciao Grode, ciao Claudio, sì, sei più che strappando, è un po' gracchiante. Hola, hola, hola, adesso l'ho abbassata, com'è, va meglio? No, negativo, ciao, che ti chiamavi, Fabri? Problema di batteria, comunque, niente di che. Problema o batteri, è spesata nell'hai, Fabri. Che cosa? Con la cosa che stavi facendo? Ce l'ho qua, ho fatto gli ultimi rondellini al tornio oggi, devo fare altre due rondelline per la regolazione del tasto, devi vedere che bellino è uscito, questo mi piace proprio questo lavoretto, quando vieni te lo faccio vedere, però ho costruito un tasto telegrafico, tutto fatto a mano, devi vedere che bello, tutto in ottone, trovato in legno, dopo 15 anni che ho comprato la fresatrice per il legno e le frese sono riuscito a usarlo oggi per la prima volta per fare la base, qui già te lo faccio vedere, è un grode. Mandalo un attimino, spedisci una foto, che poi ti spedisco una foto di quello originale che ho a casa dei miei, fra l'altro ci devo andare dopo. Tu ce l'hai quello originale, cosa ti dico? Un tasto originale, questo è un tasto degli anni dei primi del Novecento, l'originale è l'originale con i tempi, quel tempo, è ovvio. Originale nel senso un tasto del 30. Ho capito, adesso se trovo il telefono ti mando la foto, aspetta. Avevo mio nonno che si era classificato, mi sembra, secondo in Italia come velocità in telegrafia. Ti parlo della anteguerra, seconda guerra mondiale, chiaramente. Ed ero comunque in barra mobile, Claudio, quando mi hai sentito, Ma c'aveva la modulazione bassa, quella come mi sentivi prima. Claudio. L'unica cosa che rimane sono ancora le due viti di regolazione del ritorno del tasto, che non sono viti normali, ma le devo fare in ottone, non si trova niente, di ottone non si trova niente. Aspetta, te lo dico io dove lo puoi prendere, un attimino che prendo il telefonino, me lo stai spedendo? Una cosa che hai, FaceTime, qualcosa del genere, no, FaceTime, come lo chiamano, quello che mi hanno fatto scaricare, WhatsApp. Sì. Non renderà le foto e mi sa tanto. Cosa? Mi avete chiamato? Mi avete chiamato? Ora. Eccolo, ma una cosa ti volevo chiedere, Cla, ma schiacciando l'inserimento, tu i filtri ce li hai? Sì, in trasmissione e in ricezione. Si illuminano tutti, anche il 500 finale giù a destra. Aspetta che te lo dico. Sì, sì. Ah, affermativo, vabbè. A me no, non so per quale motivo. Non lo so, a me me l'aveva settato Fabrizio. C'è una funzione da fare per avere i filtri di trasmissione. internet. Cattivo, non ho copiato, ti stavo sovramodulando, dimmi. Non ce l'ha internet. Affermativo, ma qual è il problema? Per guardare quello, se lo scarichi ci trovi tutto, io trovi tutto di quella radio. Ma guarda che sono entrato su WhatsApp. E lasciami il tempo, non riesco a inviare, aspetta. Aspetta che accordo. So come si chiama in bronzo, col puntale in bronzo, tutto il legno. Ah, dimmi una cosa, come funziona la funzione monitor? Ti metti le cuffie, normali, poi pigi il tasto moni e ti aumenti il volume. Il volume è quello praticamente dove c'è il processore e il tattino nero, quello grigio è il processore e l'altro nero è il volume del moni. E beh, guarda che te l'ho mandata, però non rende molto, sai perché? Perché c'è la tavoletta, sembra che sia grezza, invece è pitturata, solo che è molto chiaro come colore del legno, l'ho lasciato, non mi piaceva farlo color mogano, dai, oppure io l'ho fatto chiaro. A vederlo dal vivo è molto bello, mentre in foto non risalta molto. Normativo, ascolta, adesso se aumento, ancora non mi è arrivato, no, sì, è arrivato adesso, aspetta che ti do uno sguardo. Stavo dicendo, alzando comunque il moni mi dovrei sentire il ritorno. Io non sento niente, è come se fosse muto. Non vuoi sbagliare, mi sembra lo faccio in banda, non lo faccio se ne parte il moni. No, in AM non funziona, come il processore, solo in banda laterale. Aspetta, provo un attimo. In banda laterale già funziona. Ti ho detto, io ce l'ho quello... quello tutto il legno col ma l'aveva regalato adesso molto belli quelli ma avete il mio cla, ma non perché è più bello più brutto, devi vedere com'è, tutto fatto a mano, l'ho fatto io almeno, no, questo l'ho proprio costruito io, devi vedere, ci sono qualcosa come 12 ore di lavoro, 12-13 ore di lavoro, però è proprio fatto completare un pezzo di barra in ottone, l'ho tagliata, il tornio, ho fatto tutti, devi vedere, adesso lo faccio vedere, e che tu non ce l'avevo in zappa, se no te l'avrei mandato. No, ce l'ho io. Ascolta, lo sta facendo ancora questo difetto? È un po' così, fai un passaggio. E vabbè, un baracchino 40 canali della Zodiac col microfono normale, niente di particolare. Oh, già vabbè, è che tu hai una modulazione troppo spinta, sei spinto già anche senza microfono. E questo è un microfono normale, cosa devo spingere? No, siccome me lo devo mettere in macchina, capito? Bellino, dicevo, bellino. Quello che vedo è simile a quello che c'hai dietro tu, che non hai fotografato, che non è entrato nella cosa. Ma a me stai dicendo? Affermativo. Quello che c'hai dietro, forse che l'hai utilizzato come per riprodurlo. Sì, quello che c'è dietro è uguale identico. L'ho fatto uguale identico, ma proprio spiccicato, con piccole varianti, però è uguale identico. Affermativo, ma ti sto dicendo, quello lì di che anni è? Il 1900, questo è stato fatto, quello che mi ha dato da copiare, praticamente è stato fatto per il, se non sbaglio, è una serie limitata per il centenario di Marconi, era stato fatto, non mi ricordo, capito? Quindi questo è proprio il tasto telegrafico classico, infatti tutti i rottoni semplici, e l'ho rifatto uguale identico a quell'altro, a quello che mi hanno dato, dai. No, aspetta un attimino, se è originale e dei primi del Novecento non può essere del centenario di Marconi, a meno che sia del centenario della nascita di Marconi, perché fino al 1905, adesso non mi ricordo quale fosse la data della prima, come si dice, comunicazione a radio, comunque lui era ancora vivo. Sì, non mi ricordo, c'è un centenario, così mi ha detto, che era una essere limitata, fatta per il centenario, adesso non ricordo bene. Comunque, quello che ti ho mandato in foto, nei primi del Novecento, i tatti erano tutti così, uguali questi, poi a vederti le foto, sono ovviamente di mille varianti, ce ne sono una piccola, più lungo, più corto, però erano proprio così, tutti nozzone, e poi ovviamente in base a chi li costruiva, se li faceva in maniera diversa, quello è normale. Affermativo, ma sai, ti ripeto, ne ho uno che è uguale, adesso ti faccio una foto se va alla casa dei miei e te la spedisco. E fra l'altro erano abbastanza pericolosi, perché se non ti isolavi bene qualche scossa la prendevi, Ovvio no, ma non c'è, beh, mi sta chiamando la moglie, ci vado a mangiare, ci siamo dopo. Ciao Roger, avanti, chi è? Buona carica, Fabri. Ciao, già, sei tutto strappato, cosa c'hai? Che sei fuori frequenza, forse? Chi sei, già? Aspetta, che controllo. Sei col VFO e stai, magari l'hai girato un attimino. Ma 2705, vuoi dire? Affermativo. Chi sono? Tu? Sono lì, aspetta un attimo, non sono, per controllo una cosa. Facciami un caso. Sto per l'ottorante. Sono un buono. È normale, ma ci sono pochi là. Qualcosa in più là. Un pochettino così. Guarda adesso. Adesso sei tu. Credo che va al minimo, va. È al minimo, se tu derra ieri, non è al minimo. Stavi arrancando, come si vuol dire. Gianni, Claudio, ci sei? Aspetta che mi scambio questo sudato. Affermativo. Claudio, un attimino di quel Rix per me, riprendo subito, un attimo. Da quando tu prendi questo ombrellone, il manico dell'ombrellone, sei bella. Chi è questo cardellino? Ciao, già, buonasera. Eugenio. E allora, sta a posto? Sembrerebbe di sì. Sembrerebbe. Ma se sono uscito a lavorare adesso, mi sono fatto la luce, ma sono imballato un bello. È un bel lavoro? Sì. Oggi che metto le cuffie. Stavo dicendo, molto lavoro c'era. C'erano molte imbarcazioni. Credo che per Pasqua sarebbero diminuite, invece no, le merci vanno sempre. Grazie di più, magari di più. Attento Gianni, doppio room. Stanchezza che lamentarsi, che sono sempre a casa, beh. Raga, avanti Flaco California, della buonasera. Sei conosciuto, viene dalla voce. No, no, non ti conosco io. Buonasera. Oh, buonasera, Carifu. Tu è che non le conosci le voci, chiami a Sandro Eugenio. Ma è quello, sì, perché non sono ricoglionito, Gianni, capito? Vuol dire che sto uscendo veramente bene. Se mi ha chiamato Sandro, mi ha confuso con Sandro, vuol dire che sto uscendo veramente bene. E poi la porta di segnale 5-9 qua, da me. Ma tu esci bene, cioè esci bene, Eugi. Ti preoccupare, esci bene. Allora già, questo accordatore lo mettiamo lì. No, fra, c'è qualcosa a finirmi tutto. E perché? Perché ti vuoi vendere tutto? Io ti compro un altro Galaxy. Perché non va bene quello lì? Vero? Non sei contento? No, perché ho avuto un problema, una saldatura che c'era da rifare e mi ha fatto prendere uno spavento, non stava più uscendo, ha detto che cacchio va, tra me non usciva, però in certi canali non lo facevo, in certi sì, era una saldatura fredda che c'era, l'ha rifatta Fabrizio e adesso sembra che stia andando. Ma dove? Sul circuito stampato? Ma non te lo so dire, non te lo so dire, sulla scheda mi ha detto, ma non so quale. Ma comunque adesso va bene, adesso sta andando bene, là. Aspetta, va benissimo l'apparato, perché te lo vuoi prendere? Perché ho paura che, che tu mi dia altri problemi, perché ogni volta mi gira le scatole, capito? Queste cose che succedono mi rompono un bel scatole a me. Mi fanno venire il malumore. Sì, ma se l'hai riparato va bene, cosa ti la frutti? Vabbè, cavaliamo. Ma io te lo compro oggi. Facciamo il cambio, ti do il mio. E ha preso altri 200 euro. E a se poco caro. Quanto lo stai dando, Gianni? Diglielo, fra. Non so, quanto lo stai dando? 3,50. Con microfono suo. Gappa, gappa. Ma cos'è? Che vuol dire? Primo 240. Ma 140? Sì. Ma non lo sto dando, che sto scherzando, aiuto. Prendendo spigo e orate, me l'ha fatto per la gara che. Ma guarda, io mi ho comprato i granchetti, c'ho io vivi. L'SO 140, oh, buonasera, chi è entrato? L'SO 140 normale. 140S. Ma chi è entrato che non ho sentito? Ho non varia la Masassari. Caduta. Di Dumonti. Comunque già, io non l'avrei venduto, puoi fare come vuoi. 3,50 non te lo prende nessuno, comunque. Io così l'ho pagato e così l'ho vendo. Mi ho valutato, qua ce n'era uno su elettronica prima, 300 euro, anche non mi ci sei salto, stava dando questo qua. Poi bisogna vedere poi come va, sarà tutto sbagliato di frequenza, problemi che si rilascia. Questo qui è proprio centrato. Lo so cosa dire. Vabbè, Lugariello, che si dice quale PR? Non mi stai ascoltando o no? Vendo tutto, 2,50. Chi è che fa il primo? Non mi hai mangiato la dopo un pugno, ogni tanto non esce dall'uovo. A poco tempo si va a pigliare in Napoli ormai, siamo in crisi. Antonio, vi lasciamo in crisi, vendi il tuo 200 euro, io. 250 tutto, alimentatore, baracchino, quello che è, carne che è il pisello. 250 tutto si può prendere il tuo, senti, io sei 80, no? 2,50, non 3,50, 2,50. 2,50 a tutto, macchina invece 60. Perché invece 60 c'ho io? No, Saletta c'ho io, lo sai. Lo sto dando 250 euro tutto quanto, arrivettatore al microfono. Tutto, 2,50. Gamma gamma. Perché prima che arriva col pisello fuori, io do tutto, non me ne frega niente. Non vi raggiungi che non me l'hai dato, già. La colpa è la tua. No, tu stavi scherzando quando me l'hai detto, che poi mi hai detto no, non lo vendo, già stavo scherzando. Ho detto ma lo dai, tu mi hai detto no, non lo vedo, che stavo scherzando già. No, la verità è davvero non scherzando, comunque sia. Oggi per te, cosa vuoi che dica? Sono anche io l'altra volta. Quando ti ho detto che c'avevi ieri, che c'erano dei problemi, cosa ti ho detto? Guarda, perché non mi hai detto a me? Non hai detto il mio. Invece hai voluto fare quello che volevo e arrangiati a un certo punto. Cosa vuoi dire? il mio è migliore, mai toccato dentro, grazie a Dio, quindi è l'unico che si guarda un sacco di soldi. Il Kenwood che ho io, non ce l'ho tanto, quindi a un certo punto, insomma, non mi riguarda. Che cos'è, superiore del C80 al 140, sì? Beh. E che cosa c'è il superiore? C'è il tuo canale dei tuoi, c'hai 50 MHz che tu non c'hai. Sì, vabbè, io di no. No, quello non mi interessa. Quando ora ci prendiamo, ce ne prendiamo un altro più grande, ma no, non è 140 né 440, uno più grande. Com'è che si chiama Kenwood 640? 680, non 640, il 680. Ah, 680. Turbo diesel. Turbina diesel. È vero. Visto che sei lì, dai. 80S. Perché non mi ascolti. Vaffa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 30, 6. Nulla, Che prendi, Gianni? Vabbè. Tanto lei non ti lo quindi, sta tra noi. Tutti me lo dicono, invece non fa lo sbaglio per quello che hai fatto tu invece, il discorso è diverso, perché sei dietro la fretta e basta, quindi non c'è per te, a un certo punto. Mi piangi, l'unico apparecchio vedi che è vergine, dentro, ma è stato toccato il mio, il 680, quindi è pure anche fronte. Gli altri non lo so, una verità, perché non so niente, però il mio è vergine e basta. Come è nato, cioè come l'ho comprato, è nato, quindi il discorso cambia. E si vale più di quello che ho trovato io, la verità, perché non 50 regalato. Mi ha dato un sacco di gente. Per le mie ci vorrebbero, non 350, no, 400 ci vorrebbero, che vedi il vento, ma è stato fatto niente, nulla, com'è, l'unica cosa che c'è il bippi, che è una cazzata vista, una verità, però è migliore la verità. Ascolta, ma tu c'è qua, tu non lo vendi quella radio, cosa stai dicendo? Anche non c'era uno che c'era un per non gliel'ho dato. Cazzo, vedi qualcuno qua si è portato via, non lo cazzo stai dicendo, boh, a un certo punto. A me mi servono soldi, no, non perché sto morendo di fame, la verità, però non me ne ha fatto nulla. Quindi, se va bene, non devo venire 50, ma di più. Mi ha detto un sacco di volte Claudio, dice dammi di più perché se va di più metto questo apparecchio qua, la verità, non è che l'ho voluto fare, non ho detto proprio niente la verità, è stato così. Cappa cappa, è così, andar bene meda, ma ascolta a me, ma il microfono gliel'ha adattato tu questa verità sotto? Ma certo che giorno già, 20 anni che c'è questa saletta. Sempre uguale, mai toccato. E stavo dicendo un'altra cosa. Adesso quanti voti stai da uscire, quanti voti stai andando? La verità. Aspetta. Sai che sai, che salvo, no? Ma se tutto va a posto, ma se capisci, 40 adesso, già lo capisce la mazza. Cioè, 9.20, è inutile lasciare di segnare, a 9.20 è radio... La radio non c'è radio, capito? La radio è tutta quanta scarsa. Che c'è da quello? Io il vergine mio, non è come il tuo, no, ma mi ha toccato io. Che lo sai, quindi, il mio vergine. Ma fai tu, se lo tocchi, cosa mi frega a me? A un certo punto. Se proprio i tuoi. Brava, brava. Già va bene, dai. Andiamo bene, Meda. Però che ti arrivano bene, Antonio. Però il microfono mi sembra poco preamplificato, quello lì, capito? Fammi dirgli una buccia. Comunque sì, a me mi ricordo se esco veramente bene a questo apparecchio. Poi non lo so. Non so cosa dirti. Comunque sia. Esco bene. È perfetto, non ha nessun problema. Dici no, da Simbroda. No, la verità non è io, la verità non me ne fate nulla, comunque sia, quello che è. Ma pare che sia uscito bene, la verità, non mi dovevo per niente perché non c'ho... è stato meglio le frulline, è stato meglio gli spaghetti piccoli per fare il brodo. E anche la cipolla. Sto scherzando, esce bene. Sto scherzando. Lo so, te lo capisco. Comunque sia, Gianni, dammi retta. Per te ci vuole un microfono, questo qua ci vuole. Ma per caso lo provi, cosa ti costa? Non ti costa niente, no? Ma l'estetica è uguale a 140. Sì, se va bene me lo vedo. Cosa? È mio? Sa detto. Ma c'è non sì, no, te lo provi, dai. C'è un saletta che ha seguato, sì, c'è un saletta costruito 20 euro. Ma tu saletta di Bezzlack, no, non lo so io. C'è una saletta, poi vedi tu cosa. Ma sei sì, no. Già, la verità non ti capisco, Non è capito, allora se io per questa rete va bene e tu non me lo vedi, io crepo. Ma che c'entra quello? Non c'entra niente, che figlio non sa verta, scusa se fatto una cazzata a cosa. Però così che l'ho fatto io, boh, data se sei a posto, ma qual è il problema, scusami. Oh, ma sei una scena, sì, la verità, sei una scena. Io boh, non so cosa fare la verità. Provalo, se esce bene, quindi, se esce perfetto, che esce benissimo, di rare, quello che è, usa quella, basta, e lì ti vengo un 60, e più non sa detta. Qual è il problema, scusami, non cambia niente. E ti dico, come mio, Bravo Plus, c'ha 6 cavetti, e c'è questa alimentazione diretta. Te lo faccio io stesso, qua, dall'apparecchio. E sei tranquillo, ti cambio la capsula e sei perfetto. Ma senti, ti ho cambiato la saletta. Ma mi senti te? Ehi, avanti. Sono già a casa, Gito, ma fai cosa mangi con il butto? No, non l'abbiamo mangiato la nostra, stavo preparando la roba per domani, la maionese stavamo facendo questa roba qua, capito? Ah, pensavo rimane finito. Ciao Antonio, buonasera. Allora, io sto provando un Zodiac M5034, Antonio, un baracchino 34 canali, e il microfono, c'è un microfono normale, come va? La verità vuoi, non ti dico niente, guarda. Se siete un baracchino normale, comunque 54 mi sembra che non sia... 34 canali, mi sembra che non sia... Se non sbaglio era 40, non 34. E la verità non l'ho neanche mosso perché c'è la manopola mezzo rotta. E perché la verità la vuoi? Dimmi cos'è, bella, brutta, cos'è? Lo sto sistemando per mettermelo in macchina. Sembra un microfono. Boh, la verità no. È bello, perché è bello. Però non mette andare nel film del trasporto veicolo grosso. Gli ha dato la pena a metà del DC e basta. E va benissimo. Ce l'ho aperto. Qual Leggi questo, guarda. Ma è tanto adesso? Questo non mi aiuta. Questo qua è la legge, allora. Come va già? Sì, adesso va bene, prima gli dava un po' di... tipo rimbombo così, però adesso va bene. Adesso come l'hai alzato, già va bene. Cos'è questo qui, lo Zodiac? Un Zodiac M5034. Io ho il base B5024, questo è M5034. È un baracchino, non l'ho provato io, ero fermo al 12, non ho provato 640 canali, 34 canali. Ciao Ege, buonasera, ben sentito. Buonasera Cla, io ti sento una bomba, guarda veramente. Sembra che hai, che stai usando dalle mie parti un microfono amplificato, ti sento benissimo, forte alla grande. No, no, microfono da palmo, non c'è problema. Infatti poco fa c'era Fabrizio, mi ha detto che lo occupo, allora l'ho aperto. Sto facendo qualche regolazione così, giusto per... Non ho compreso un accidente, guarda chi è, ma già so leggere, c'è scritto LC, l'ho tirato su. E quindi ha migliorato, Antonio. Sì, ascolta, ma cos'è quel... Ma la quello verde, così è, per due ossi. No, Antonè, è vecchio, è a LED e i canali sono rossi. A LED, capito? Non c'è niente, né FM, nuda. C'è la M e blu. La basta. Parlando io il coso, no. Aspetta, non hai capito. Allora, il display lo sai che è normale, però lo smitter e le LED rossi ci sono 5 verdi, dice da 5 o 4 ce ne sono, di che sono? 4 ancora. Sì, allora c'è ragione io, cioè, ed è quello il film. Sotto questo fattore c'è quel dimmer, quello delle LED, e sei a posto, è probabilissimo. Ciao a tutti, buona mangiare, ci sentiamo più tardi, ciao. Ciao Eugenio, buona serata, ci sentiamo. Sì, quello lì Antonio è andato a vedere, poi c'è scritto LC sotto il trasformatore, va. Io vabbè. No, nuovo, mi ha dato Franco Califfo. Mi ha dato Franco Califfo, capito? Allora me lo pongo in macchina. Sì. Se va bene quella parecchia, è a Mombo. Quindi, non conosco la verità con la parecchia, è un demonio, esce benissimo. La vedeva nel fiume prima quello. Mi pare sì, l'avevo visto qualche volta. Ok, avanti già. Ma com'è? Celeste? Celeste metallizzata? È nero, con display rosso, c'è le LED rosse, ma te ne ricordi che fa già? E metti anche tu, no? Ma il modello non mi viene, qualche modello era, no? Perché ce n'era uno che era uguale al Tocca 5024, che era dello stesso colore, solo che era Zodiac. No, non c'è niente a colore, lascia perdere. È un contacanale, c'è le 5 LED, cioè sono rossi, e tu c'è il display dalla tua parte, e basta. Cioè M... c'è il volume, lo squadro, non c'è altro, la verità, perché è singolo, poi c'è un modello che c'è MFM, se non mi sapete. Io sto andando, toccai 5024, vedi un po' come sto uscendo, ciao Claudio, buonasera. Di sicuro. È morto Califano. Cosa? Ciao Fra, chi è morto? Franco Califano. Cazzo di altro, è morto il Toiannacci, quello Franco Califano. Adesso l'hanno detto. Cazzo. Vabbè, era malato. Con tutte le trombate che si faceva, la cocaina che prendeva. L'appannaggio, cazzo, sembrava osso, sembrava, era come lui fa. Ah, Antonè, cazzo. Dite si fazia più tromba dietro che un aino. Più la cocaina, ma già lo credo che l'ugure non ha retto. Beh, Califano! Ciao Claudio, buonasera. Già ti ascolto bene, non vuoi vedere che stai arrivando con la radio. Stai arrivando benissimo. Riprendi Claudio. Via Fra, KK. dinamico che mi hai dato, gli ho messo la pila perché quella là era completamente scarica e gli ho tirato su la appena appena di LC. Adesso vuoi trovare la manopola dei canali, cazzo, ma mangiata te l'hai. Ma veramente a me me l'ha dato un amico mio di paese quella radio lì. Solo che la manopola dei canali non c'era, capito? È interna. Già mi ricordo quella, c'è la... La roba... Ricordo la roba che entra all'interno, ma uno la cancia il contattore. Lo sai cosa gli ha messo Franco o altro me? La manopola di Rogoso, devo vero la stiro. Se me lo sono girato. Subito sega, allucinato. Sega, avevo 100.000 manopole, qua non ce n'era una che andava bene. Ma vai, adesso cerca, cioè ce l'avevo per una cina che era vecchio da buttare. Allora ho tolto praticamente la manopolina, quella che c'è per commutare il vapore, e ho questa lì. Già me lo sono immaginato qua. Almeno funziona, se no era un casino, dove prendere cacciavite per girare i canali. Cazzo di abu. Tu non ne hai di queste manopole col coso interno, no Antone? No, allora mettiamo, sotto mi ha creato l'altro dicendo, che aveva creato subito. Ma non è, ho capito qual è la manopola perché me la ricordo. Quel giudice che mi regalavano, allora portavo mi sembra 100.000 lire, a neanche addirittura, mi davano così 40 canali, c'era quello che faceva solamente Eben e l'altro che faceva MFM. E era bellissimo la verità. Adesso c'è una ricezione mondiale, vi ascolto bene, poi ho questo microfono, già funziona. La goccia vedra che quando giri i canali esce un vapore. Guarda, mi so come nel tasca lo conosco. Cazzo di un vapore. Cazzo, funzionavano bene con la radio lì. Quella era la prima radio che io ho avuto, io quando ho cominciato a modulare ci avevo lì il coso, il cricchetto, non so se hai conosciuto. Il cricchetto? Il cricchetto, era una marca, non so la loro, era cricchetto di marca, poi ho avuto il Palmar, forse hai conosciuto il Palmar 23 canali. Sì, il Palmar Verbala magari ho conosciuto io. Ma il Palmar, quello era azzurro metallizzato praticamente. Ho conosciuto il Palmar Verbala, che è un po' con bello che è quello, mamma mia, era bianco, rosso e verde. Mi siete tutta l'arma, una bomba con l'apparecchio, sai che c'era un amico mio, non me lo può dare, neanche per 10 euro. Un apparecchio che non è troppo di quelli. Io ho un Tornado 34S. Sì, proprio punto lì. Gianni di Abobo Goepi, oddio mio. E cazzo, ce n'ho visto. Se tu sei sul 12, io ti sento sul 40. Io sono sul 12 e sento gente che parla da Porto Torres. Figurati, dove io. No, guardate, se sono stato che c'ho qua, quello funzionava bene. Uia, vabbè dai, baracchini vici, comunque questo per la macchina già va bene, fra, non è che non funzioni, già va bene. Avanti doppio route, quindi domani sei in vacanza? Domani, dopo domani. Quando stavo dicendo, adesso guardo io se ce l'ho qualcuna di manopola, ma come sono, di quelle grandi, rotonde, oppure di quelle normali come, cosa ti posso dire, l'accensione, eccetera, eccetera. No, una manopola dei canali è che ne ho anche io, solo che questa già, il commutatore è all'interno, quindi la manopola deve avere quel coso che entra dentro per agganciare il commutatore, capito? Se fosse il commutatore esterno, allora ce l'avrei anche io, solo che questo il commutatore ce l'ha interno, ecco perché gli ha messo il coso del ferro da stiro. No, di quelle forse non ne ho. Cioè, praticamente c'è maschio femmina. Quelle dove c'è il perno o dentato e ci fili la manopolina. No, così no, interno no. C'è maschio femmina, lo sto dicendo io. La manopola praticamente è una manopola normale, però che ce la prolunga in modo che c'è la possibilità di prendere il commutatore, tutto qua. Perché io ne ho un po' di manopola, ma lì non va bene, perché la manopola me la prolunga, capito? Esatto. Però se va da coso, da Fusaro, ci sono quelle manopole. Oppure c'è tipo un rosmetro della ZG, mi sa che è uguale. Rosmetro della ZG, forse c'ho qualcosa dentro l'armadio, cazzo non fermo, diventa turbo c'ho cosa. Hai fatta? E ci ripongo con la prolunga di Laino, 93. Ah, boh, non lo so io. Boh, prova, a venire. Non lo so. Riprendi, Antone. Aspetta un secondo che entra subito là. Il cane è entrato. Il cane, no, il cane. Non cade un no, basta, c'è un attimo, che è entrato subito. Ma perché ho sentito il cane? Boh. Vabbè, riprendi Gianni e poi vai a girare per Claudio. Ma le quelle della ZG sono brutte, sono grigie con il contorno giallo, ah, c'è la gomma. No, no, no. Adesso già guardo nella scatola se ne ho qualche numero. Ma quelle della ZG sono fatti di se no ce le ho anche io così. Claudio, rimetti che va bene la manopola del 440 a quella del selettore. Quello del selettore, ah, no, ma io c'ho, allora quella della KB23 non va bene perché è esterna, dovrei avere qualche baracchino, un po' di quelli dentro l'armadio buttati, posso guardare e vedere, vabbè, e comunque già funziona, la manopola del canale già si trova, al limite martedì, se non ce l'ha Gianni, martedì guardo se da Fusaro c'è qualche manopolina nera. E io. Catarata del 680, là. Cosa? Catarata si sta vendendo il 680. Vai, non lo vende il 680, cosa vende il 680? Poi non ne trova più di quelle radio. Già non ce n'è più in vendita, cazzo. Ce n'è gatta ne più, eh. Oh, di 680, no? È raro trovarli. Tonello! Lascialo stare a Tonello che sta facendo cosa. Va bene. Ok. E quindi lunedì vai fuori già? No, siamo qua vicino, là. Siamo qua vicino, in campagna, ma siamo qua vicino. Non ci vado fuori, no, là. A rischiare, a fare, quando puoi stare a due passi, siamo in una villa grande, c'è spazio da arrostire, da fare, cosa... No, siamo lì da lo zio di mia moglie, siamo tutti in greffe, cugini, tutta gente giovane, capito, amici, eccetera, eccetera. E facciamo una specie di arrostita, là. E anche perché il tempo dice che è brutto, boh, non lo so. C'è una casa enorme dove c'è il barbecue fuori anche coperto, quindi si può arrostire tranquillamente, capito? Non c'è problema per quello. E poi c'è la casa, se piove ce ne siamo dentro a mangiare e via. Infatti conviene fare così. E tu Califfo dove sei? Oh, ecco la voglio uccidere. Che fare? Ma ho visto che c'è tempo brutto, è stato le previsioni, stavo guardando. Praticamente ha dato tempo brutto anche domani. Domani e dopodomani pioggia. Boh, poi non lo so. Cos'è già? No, ho detto a Franco che è morto Califfo, sentito? Cosa me la frutta? Io mi ho toccato le palle e poi. No, ma tu lo sei Califfo, come già vedi? Allora, Già lo credo, dato. Era blocco, ma registro che... Ui, ui. Sta prendendo una sigaretta. Ma state fumando già? Negativo. Sto fumando una sigaretta elettronica. Cazzo col coma. Ho riposato niente, ho un po' pranzo, ho trovato i palle. certa ora, massimo 10, 10 e mezza, se qui è in coma. Oggi bisogna portare la sveglia avanti, più ora. Quando mi corico, la porto avanti. Cavaga. E vabbè, comunque, oggi si può anche approfittarne un po', là. Visto considerato che domani non si lavora, si può fare qualche ora piccola, là. Alessio, che fine hai fatto? Ma le pongo lo cose, no, che lo mettano più tanto c'è l'adattatore. A vedere se funziona bene. Aspetta, che io sono cannoso con i microfoni, che questo super sideri che si adatta a tutti i baracchini. Aspetta che prendo l'adattatore a vedere. Kappa, fai. Sono 50 perché tu l'hai regolata a 50 watt. Quando poi lui, scalda se ne va a 50 watt. Però non ti crea problemi, non stai sempre sali e scendi, io non lo toccavo mai, eh. Il 140 è regolato così e così rimane. A caldo 50 watt, appena lo accendo, c'ha quei 20 watt e poi i picchi modulazione sono quelli. Quando poi si stabilizza rimane stabile a 50 watt. Non c'è niente da fare, capito? Puoi provare solo qualche microfono equalizzato, qualche microfono con la capsula dinamica anziché ceramica e vedere un po' se ti cambia la modulazione, capito? Massimiliano sta usando un microfono del cacchio, che è sicuramente è inferiore all'MC60, esce molto molto meglio con l'equalizzatore, molto molto meglio. Chi è? Come dice Claudia, a secondo della timbrica, capito? Guarda, a me preferivo più con questo che col K, perché quando si abitua a un tipo di radio, poi non è detto, ma riesci anche a portare quel tipo di radio pensando tu. Ma io la verità non ti ho sempre sentito con il microfono con l'eco. Guarda Luca, tu il K lo portavi bene. Quanti anni ci conosciamo già? Buoni buoni, 5 anni di più? Forse 10. Tu pensa 10 anni, quanto parte ti ho sempre sentito con l'eco, sempre. Ho amplificato con l'MV più 4 o con il microfono, ma ho sempre amplificato, ma comunque l'ho già fatto delle volte con l'eco già, DM1000, e ti sentivo sempre bene. Non so, infatti ho fatto una cazzata a cambiare, sono problemi che apparecchi brutti. Ma poi mica l'hai detto che piano piano, adesso, poi sono microfoni che devi stare distante, la parte vicini troppo un casino, non esci bene, o me lo abbassi, ma comunque già, fai forte, segnale forte. Sì, praticamente sul 3 del più 30. Ma io sono lontano. Tu hai presente il mio braccio quanto può essere lungo? Quanto è lungo il braccio, io sono lontano. Sì, grazie, allora deve essere molto la distanza più o meno, da un metro, vero? Ma non c'è un metro, io parlo 20 centimetri. È la timbrica, non bisogna gridare e poi deve avere quella forza, quell'acuto da poter far spingere i toni alti, perché l'MC60 ha una capsula ceramica in porcellanata che se tu non le dai gli acuti, se la tua voce non è acuta, lui ti dà tutte le tonalità basse, e alla fine ti fa uscire cubo, capito? 20 centimetri io parlo, ma anche col tale più 3, io sono a 20 centimetri. Sì, sì, ma infatti, a secondo, vedi, Massimiliano esce bene, però sento esce bene. Sì, ma comunque guarda che dovresti essere abituato, Luca, a stare 20 centimetri da un microfono. Ma tu sei anche a 5 centimetri da un microfono, ma senti più vicino. Ehi. Vabbè Antoine, vabbè mitico, Claudio, ciao Gianni, ciao Luca, sto andando al battesimo del figlio di Danielino, che mi ha chiesto di fargli un paio di foto, dai. Cava gama, dov'è che lo battezzo? Stanotte alle 10:15, infatti mi sto caricando la macchina fotografica. Cappagna. Ciao Anto, buonasera di nuovo. Scusa, poc'anzi ho cambiato canale, mi stavo sistemando il microfono. Sì, mi hanno detto a me alla chiesa qua. Una messa che c'è stanotte, dai, 10:30, 10:15. Affermativo, 10:15, infatti sto per uscire. Credo che sia la chiesa quella nuova di Montelepre, no? Gatti, voi vi siete sovramodulati. E io? Stavi dicendo già? No, dove abitava Antonio, come si chiama? Si è capito. Ok. L'ho visto avantieri. Ho visto. Affermativo. Come sta? Hai visto il tuo conto dimagrito? Antonio ha dimagrito, però bisogna capire anche che nelle situazioni, ed è quello che gli ho detto come se fosse qua, nelle situazioni di disagio, voglia essere qualsiasi tipo di disagio, uno si deve adattare, soprattutto se c'è chi si mette nella condizione di darti una mano. sopra, dico, bastava poco seguire le regole del posto dove stava per avere vitto e alloggio in un certo modo e poter andare avanti, quindi trovare un lavoro e rimettersi un attimino in piedi. Invece sembra che questo non sia avvenuto e lo vedo un attimino in difficoltà. Adesso non è il caso di parlare alla radio, però mi dispiace. La stessa cosa gli ho detto io. Ti ripeto, può capitare a tutti, lui stesso non credo ne abbia fatto segreto con nessuno, però può capitare a tutti in un momento della propria vita di vivere un momento di disagio di vario genere. Ora, c'è chi ti dà aiuto, ti tende la mano, non è che puoi fare lo strapotente, lo stravagante, mettendoti nella condizione di voler essere aiutato alle tue condizioni. Mi dispiace che le cose siano andate così, perché è una persona che ho imparato a conoscere, lo stimo e mi dispiace. Io glielo ho detto, c'è una calmata e cercare di capire qual è il vero problema. Dopodiché sicuramente si risolve, perché tra l'altro è anche un bravissimo operaio, quindi è un momento brutto per tutti e quindi immaginiamoci a una certa età se ci puoi avere la fortuna di trovare un buon lavoro. Vabbè, comunque, ne parliamo un'altra sera. Avanti Gianni. Vabbè, la vita non sa mai cosa può succedere. Certo, uno si deve adeguare alla ragione di tutti, ma lui ha detto che lo faceva alle 7, che se lo invitava un amico a cena non poteva andare, che al massimo poteva chiedere una volta il permesso e basta, e insomma, lui dice io preferisco andare a casa di un amico, poi dove sono andato, l'ho trovato a pronto soccorso dormendo di notte, col cellulare attaccato alla presa, pronto soccorso, prima che il cellulare, il mio, lo sto caricando. Scusate un attimino che intanto nel frattempo mi preparo, vi sto ascoltando. Siamo qua. Ah, non mi hai detto niente, ma com'è la modulazione, Fla? Bella, va bene. Ma così è meglio, guarda un po'. Sì, va bene così e va bene anche prima. E non avevo messo l'high boost. E quello tiene non inserito, non è mai che spinge di più. No, io mi sono controllato col microfono. Così va bene, no? Perfetto. Vabbè, teniamo questo baracchino 40 canali. Luca Riello. Io mi sto facendo un ragionamento, quello che mancava dal computer, se lo spacco uno. Cazzo, lui gli ruoli, dalle 9, ma dalle 8 e mezza, dai. Poi lui gli ruoli, ma non ci sono. Cosa che c'è da qualche? Non l'ho più visto. Niente, non abita più lì e niente. Cosa stavo dicendo? Allora, il mio l'ha inserito Stefano a quest'ora, 10:30, una cosa del genere, boh, forse sono state le 10:15, ha finito alle 6 di mattino. Vabbè, cazzo, un po' come i vicini con un euro. Molto più ricchi, a parte che c'è stato operativo XP, grazie. Il mio, diciamo che insomma, così dai, partenza per bene questo qua, però quello che fai tu non bene di più. Oh, qua adesso sono nato con questo nuovo adesso. È molto più veloce, aggiornatissimo, non c'è mondezza, non c'è niente, sono i programmi giusti. Va bene, l'altro ce l'ho lo stesso attaccato alla linea e lo uso solo per il callbook di stazione, quindi am il radio deluxe, il logbook, c'ho due monitor e due computer, quello nuovo lo uso su internet, è velocissimo, fino adesso non mi crea problemi, su Paltalk e su Google, basta. Non c'è altro niente. L'altro invece lo uso solo per il callbook di stazione. Due monitor, due tastiere e due computer. Avanti già. Ehi, avete visto su eBay quell'ala stazione base come che praticamente si assomiglia un bel al Galaxy Saturn Echo Turbo, esce con 100 watt e così, 500 euro lo fa vendere. Freche. Registrato in diretta che si accuggia. Oggi più di 5-0 buon baracchino, avanti Beck. Buonasera. Buonasera signori. Okay. Un attimino che ero. Che era un po' che non lo facevo trattare. Cosa? Cosa? 44? Va bene. Ottima modulazione, non stai strappando, l'ha regolato bene così, lascialo stare Sandro, non ti avevo manco riconosciuto. Ciao, buonasera, io sto andando col barracchino, quindi no, la modulazione mi sembrava coso, Massimiliano. Avanti, Luca, riprendi. Prendi la radio, chi fai, allucinante, bella, bella radio. Guarda, non dico come Finwood, ma è bella questa qua, Proprio bella, perfetta, bella, mi piace molto. Ciao Sandro, mi sentite, buonasera. Avanti, Gianni. Ciao Sandro, mi sentite, ecco, che apparato c'è Sandro? Ciao Luca, ciao Gianni, buonasera Claudio, ben ascoltati, dai. Scusatemi che c'è una signora che ha parlato col computer. L'abbiamo sentita. Luca, questo è il Turner più 3 con il DAC. Il DAC marchio 10 SSB radio telefono, questo è il DAC. Poc'anzi stavo usando il Zodiac, quello 40 canali, ma questo abbinamento è quello che piace a Gianni. Luca, ci sono. Va bene, me l'abbiamo detto qua, bello, la radio qua. Ma se vuoi ti conosci male, o ce lo conforto te lo dico, sono lì a rigirare le cose, questo va benissimo, proprio pur di bene, bella radio. E senti, con questo sempre, guarda, lo spettacolo, prendi con l'altro devi talmente forte, che ma neanche io vuole tutto lo fa un culo. Luca. E c'è uno che ti chiama Luca. Che mi chiama, avanti? Luca, mi senti? Chi è? Basso, chi è? Sono Giulio. Sono Giulio. Giulio, facciami il Giulio. Senti tu qua. Oh, Giulio, ma il Giulio, boh, non ho capito. Attenzione, amico, chi sei? Sono Giulio. Giulio, sì, Giulio, volevo parlare con Luca. Luca, avanti, ti vuole parlare, con te, qua. Non facciamo scaldare, vabbè. Ogni tanto bisogna bisogna farlo vero. Se non sbaglio c'è quel il signor egregio, lustrissimo di Crote, così è. Grotto e Tightwood, tutto bene? Mamma mia, mamma mia, mettiti in linea. Luca. Oh? Stasera non ci dice che sarebbero scese le lacrime. Entrando tu, Franco, ormai mai niente. E l'ha detto Gianni, mica è morto Franco Carifano, per forza, con coma. Ma davvero è morto Carifano? Yeah. Cazzo, tutti stanno morendo. Quando è ieri è morto cosa, come si chiama? L'ome. Iannacci. Ed è morto Carifano, ma è sicuramente era attacco cardiaco. Ha detto Franco California che era coccomane. La maglia del naso non ne va più. Ma perché mettete in linea? Ma perché mi senti male? Fu disallineato, Sandro? Fatto, ti sento tutto distorto. Distorto. La modulazione. Non è vero. Tagliare i filtri allora. Togli l'NB, Sandro. E tutto. Non c'ho niente attaccato, addirittura non c'ho neanche la colonnina, di solito me lo fa con la colonnina, sono diretto. Senti distorto, ma come se fossi fuori disallineato. Diciamo disallineato, compressa la modulazione, si capisce. È chiarissimo, sai, è chiarissimo. Guarda adesso, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Forse perché da voi essendo vicini, ma è strano, se essendo vicino dovreste sentirlo. Non c'ho nessun filtro, non c'ho niente, proprio passaggio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova, guarda se mi ascolti bene. Ai, sì, vabbè, dai, ci avevo inserito i filtri, dai. Il tastino destro, quello che usiamo quando siamo in banda, dai. Il notch ci avevi inserito. No, il notch a fianco. Il notch per spostarci. Dritti con l'NB, quello ti sfasa perché 440 c'ha i filtri. Va bene, problema risolto. Vabbè, io non ho nessun filtro, vi ascolto benissimo, la grande, tutti bene. Va bene così, allora Crote. Adutto, mi hanno detto che sei passato stamattina e non sei venuta, se non mi hai chiamato per salutarmi. Scusate un attimo, sono in audio al computer, arrivo subito. Perché ce ne frega? Prego, faccia pure. No, guarda, ero talmente incasinato. Oggi è una giornataccia. Cotte, crude, bianche, marrone, verdi, e più è di tutto. Quindi non ho avuto tempo. Bagno per me, arrivo subito. Pure tu, avoli. Gianni, tu qualcosa devi fare? No, perché uscire lui? No, negativo, se vuoi venire al coso, sto andando a fare queste foto, se vieni mi fa piacere, credo faccia piacere anche a lui. Ha esteso l'invito a tutti, quindi non è che ha detto alcuni sì, alcuni no, ci mancherebbe. No, a me non mi ha detto niente, tanto non mi piace più invitare, non me ne fusi. Cavagato. No, sbagli perché ha invitato tutti, tu non c'eri, ha invitato tutti indifferentemente. Ma figurati, ma poi con l'ottimo rapporto che hai. Ti ripeto, non me l'ha detto per telefono, l'ha detto qua in radio e ha invitato tutti. Non lo so, cosa devi fare? Ma ti serve una mano per la fotografia? Oh, nel caso non sono solo, ma ti ripeto, guarda, a lui fa piacere, anche perché non è che mi ha invitato al ricevimento, che credo non ce ne sia, ma ha invitato esclusivamente al cosa, al battesimo vero e proprio. Ma con chiara? Affermativo. Allora lascio vedere. Vai, tranquillo. Non aggiungare, dico la verità. Fagli auguri a partire. Avanti, Luca. Aspetta. aspetta un attimino, riprendo, scusami. Ti stavo dicendo, dai, sì, io sono già in ritardo, vi saluto, ciao Sandro, ci sentiamo alle prossime, quando trovi 5 minuti e passi, dai, squilla che ci beviamo caffè. Ciao Gianni, mi dispiace che non venga perché, ti ripeto, mi avresti dato sicuramente una mano più fattiva. Luca, fai da bravo, fai da bravo. Ciao Cla, grazie e alle prossime. QRT per me. Ciao ciao. Ciao Anto, ciao. Ciao ciao. Antonio, sentiamo alle prossime, dai. Va bene, va bene. Avanti, Pomponio, datemi un secondo che vada bene. Non so anche fare un boccettino d'acqua. Avanti, Pomponio. E buonasera a tutti. Ai, Pomponio. Buonasera, dottore. A far culo. Anche che pizzo, eh. Beh, l'unica cosa che posso fare è quella. Allora, carissimo egregio Pomponio, raccontaci. Dimmi, dimmi, sono qua. Tutti i brutti sono qua, c'è prima per un canale, nel canale. Tutti spaventi sono. Ah, pensato sì. Buonasera, ti sei anche tu allora. Io ci sono, ma stavo rivolgendo a parlare a mia moglie, mi sta chiedendo roba. E non posso parlare di da due parti insieme. Va, va, va. Allora, allora, c'è nato la lì? Sì, c'è nato, sì, abbastanza. Bene, la retta. Adesso ti sei sentito il balbanzone. Oh, Gianni e Pomponio, ma state volando dalla stessa antenna? Sì, sì, io, guarda, mi sono preso per la sua, lui ha detto casa mia, fredda. E poi che fa, sa? Avrete lo stesso segnale spiccicato, cazzo, neanche di una virgola, i leggeri picchi positivi, blu. Sarebbe il segnale? Il segnale sarebbe 9+20, con leggeri picchi positivi, tutte e due, spiccicato, raccolgo questi debuti. Tu sei 9-19 con picchi a 9+20, con leggeri picchi positivi. Anche qua, 9+20 radio 5, invece io sono 7-5 perché sto scendendo con 3 watt. 3 watt, sì, 3 watt, no, tu sei Santiago 9 a picchi di quasi 9,5. Ah, già va bene, dai. Tu, 4 watt l'ha detto Baracchino, non è che ci sia molto, ma se poi devo salire il segnale, allora te lo faccio salire, basta attaccare, ma io sono con proprio i watt del Baracchino, Baracchino vero e proprio. Quello è il DAC. Cappa. Però da che ne da 10 in AM e ti fai la metà che ho preso io. Ma non è al massimo, è a 5 watt, 4 watt e mezzo, va. 4 watt e mezzo lo tengo sempre, perché se non scalda un bel cazzo, già vi so 24,5 qua. C'ha le valvole, mi deve vedere un gas a pitorra, allora lo metto basso per non scaldare troppo, capito? Vabbè, comunque già sto scendendo bene, interessante è quello. E infatti se ho una diversa antenna dalla mia, però c'è una zona molto più favorevole. Com'è però quello, già lo sai Gianni? Ma non è quello che è favorevole a tua zona? No, tu sei molto più positivo per produttore, sì o no, la verità si dica. Tu ce l'hai di fronte, io no, io ho solamente 2 radiali, non 3. Anzi, tu ce l'hai 5, la verità. A me uno mi è sceso, ho detto, tu hai in terra, e neanche l'ho raccolto, figurati tu. Non mi hanno aspettato, ho fatto questa radiale, adesso che sei il tuo, perché ho guardato subito l'antenna, ne mancava uno, quindi... No, la tua zona è di libera, io l'ho vista dalla soffitta, diciamo dalla stanza dove qui c'era parecchi, là, con la finestra da lì, ho visto che è tutto libero lì. Sì, ma l'ho visto anch'io, non ti sto dicendo niente per quello, scusa. La cosa è uguale, il problema è che io sono più alto, e infatti la sottovalto di dove di fronte, invece tu sei più basso e c'hai in pratica proprio in pieno, il discorso è quello. Io sono molto più distante, non fai i calcoli con molti voli o già, la verità, perché sbagli. Sembra così, ma non è così, il discorso è quello. Allora, comunque l'antenna è diversa. Per qualche cosa dovresti arrivare più forte, la lanterna è molto più potente della mantova, di quella lì. Vabbè che non ci porta anche la tua, sto pensando che fosse la tua. E vabbè, cioè, ma ci portavi quello che vuoi, ma io c'ho tre radia, non ne ho 5, discorso è quello. È anche più bassa che l'hai visto. Se l'hai avuto la mantova come prima, allora sì, il discorso sarebbe stato diverso, ma siccome è... sono cambiati i tempi, quindi a me non c'era proprio niente, non ho mandato mai 5 per dire, mi ha contato di quello che c'ho. Tu mangiavi più bene lo stesso, avresti proprio pensato la posizione favorevole, quindi va bene così, avanti, grazie. Aspetta, lanciamo a Sandro, avanti, sa. Sì, ok, dai, no, cioè è buona. C'è buona un po' la tua posizione, dai, anche se essendo basso quanto vuoi, tu quanto farai abbastanza da conduttore, se il conduttore sia abbastanza favorevole come posizione, dai. Già, vabbè, poi comunque, l'importante è la radio, quella che conta, poi il segnale è relativo, ok. Ditemi una cosa, se per caso sentite l'alternata, perché c'era l'alternata, quando appoggiavo la mano, adesso c'ho la mano appoggiata sul mic, adesso non c'ho mano, per vedere se sono riuscito, gli ho fatto un ponticello per vedere se sono riuscito a tenere questa alternata. Vai già. Pronta, da parte mia non ne hai da parte mia, ma sei riuscito, vai. Neanche da parte mia, Sandro. Adesso ti faccio un passaggio a parità dei watt di loro, guarda. Così è 4 watt e così invece è tutta birra. A cambia. Sì, qualcosina cambia, vai da 9,15 quasi. Vedi bene. Ok, va bene, avanti Antonè. Io, ok. Già va bene. Cosa vuol dire qua? Si muove su quelli che sono. Purtroppo. Secondo me, con quello che sto facendo io, sono basso adesso. C'ho due radiali, perché uno non è sceso, poi c'ho il di sotto, vabbè, quello potrebbe farne anche il riflesso, niente di strano, no, non lo so, dipende, comunque sia, come sto scendendo, mi sta bene, eccetera, eccetera, come scendevo un'altra volta, vedi, 5-6 anni fa, il discorso cambiava, la verità ero molto, molto più forte di adesso. Come segnale, come tutto, perché da buon mattino, sempre con il mio inserito, quello che... Ma adesso comunque non mi frega più per niente la verità di usare cose del genere. Però, non c'è più il divertimento di prima, la verità. Quindi, escludiamo le... Dopo 2001, quindi, a un certo punto, e siamo lisci con questa parecchia, sempre lo stesso quello che è. E ormai sono passati quei tempi delle grandi battaglie, dai, poi è arrivato a un certo punto uno piace andare solo a rilassarsi, dai, tanto poi alla fine dei conti alla fine dei conti poi insomma sente la musica, sì. Alla fine dei conti poi è funzionato la corrente, questo e quell'altro. Già va bene così, normali normali, dai, ripete già. Ci sono i cugini di campagna che hanno dedicato la canzone a Ettore, a Giulio e Luzzini. Ecco, la ragazza che è morta, il ragazzo si è buttato dal ponte. Sì, deve essere quella lì, perché c'è mia moglie che è su Facebook. E quindi evidentemente deve essere quella canzone lì. Io, guarda, no, non fa più guardare il telegiornale, guarda, non fa più. Allora, vabbè, questa qui è una cosa che è successa da molto tempo, ma mi è rimasta impressa perché avevo la loro età quando è successo e mi era rimasta impressa perché erano scout lì a San Giuseppe, tutti e due, invece ha preso la leucemia e lui ha detto che se moriva si buttava dal ponte, è morta e si è buttata dal ponte dal vento. Bel coraggio, cara. Vabbè, dopo. Uia. Bravo, dai, riprendi un po'. Lo sai che a volte il cervello fa quello che in teoria non dovrebbe fare. Oh già, il discorso è quello, quindi a un certo punto il discorso è quello. Ma ce la facciamo anche per un pezzo di cazzo, il discorso è quello. Tu hai capito quello che ti voglio dire, cioè in pratica fare quello che vuole per un'altra persona non fa più, è meglio così che si ammazza lui, non io, per dire. Quindi, come la penso io lascio una contesta mia ormai. Quella che ho me la tengo. Se uno vuole, se sono antipatico della genere qua, ci sono stati i posti. Ma se mangia e si ammazza. Un po' cioè saprebbe un'altra persona, per come penso io. Infrancarla, quindi. Oh, aspetta, aspetti, me ne vado andare. Vi saluto tutti, ciao Antonello, ciao Sandro, ciao Gianni, chiunque fosse in ascolto. Buonanotte a tutti e buona Pasqua a tutti per domani. Ciao, buonanotte. Grazie, grazie quanto, tanto. Ciao. Avanti, Franco California, ci sono. Ok, ciao Claudio, dai. Buon tutto anche per domani. Ce la risentiamo alle prossime, dai. Il punto è che questa coppia qua c'erano 6 mesi insieme, non erano tanto, tanto. Purtroppo ci sono, esistono anche i sentimenti, non purtroppo, esistono i sentimenti e magari in 6 mesi avevano dei sentimenti profondi e non ce l'ha fatta più. Infatti gli amici pensavano che lo dicesse per sconforto, invece l'ha fatto davvero. Io l'ho visto anche, ti dico la verità. Mi ricordo il nome e cognome tutti e due perché aveva colpito il fatto in una maniera pazzesca. Io lo so, io ti ho capito la sofferenza. Cioè, il problema è in pratica che per l'amore, cioè se stava di uno stava anche l'altro. Poi invece per altre cose, a un certo punto, cioè, rinuncia una persona, la porta al suicidio, capito? Il discorso è quello, tra che cosa? Perché non lei, ma lui in quel cosa posso dire? Cambia capito. Non l'ha accettato nessuno, quindi lui a un certo punto dice, non l'ha accettato nessuno, ti qua ci faccio in vita. Quindi mi suicido se la via in culo, diceva quello. Capito? Ci sono sempre degli spirali della vita che se tu pensi che ci sono persone che vorrebbero vivere e non riescono a farlo perché hanno delle malattie che li portano alla morte, ci sono persone che invece si tolgono la vita pur essendo sani e cose del genere. Ci sono degli scompensi in queste due cose che si potrebbero, almeno da una parte, si potrebbero evitare. Infatti, questi invece i politici, guarda un po', se la fanno dal ballo di quello che dicono gli altri. Ma fanno questo impegno, dice, ma fanculo, usate come la fuori, fammi a pezzi, cosa me ne frega a me. Sentiamo il stipendio e arrivederci ai gratte, e quello non può braccio maledire, l'abitare di un imbecille. Purtroppo è una sconfitta, ma non succede mai così, per dire, adesso, mi sto parlando solamente dei politici, ma comunque sia, per le altre cose, bisogna fare, come si dice, il lonfio. Sandrino, mi terminò un tasà. Ehi, cosa vuoi che ti racconti già? I sentimenti sono una cosa tutta particolare, quindi, cosa vuoi ti dica? Posso dire, diciamo, che la nostra vita è un libro aperto, giorno dopo giorno, noi, da quando ci alziamo che cominciamo la giornata, giriamo pagina, quindi non sappiamo quello che ci aspetta, non sappiamo come si affronterà la giornata, perché la giornata noi la affrontiamo in un modo, poi invece magari ci sono, chiamiamoli intoppi, chiamiamoli contrattempi, chiamiamola quanto, quindi so solo che la vita nostra è tutto un libro aperto, tutto un libro aperto. Io adesso cos'è? Bene, il discorso, cioè mio cugino, 47 anni, è stato quasi un anno battagliando, e ha battagliato la grande, e 47 anni, ha lasciato la moglie e un figlio, e purtroppo questa è la nostra vita, quando arriva bisogna accettarlo, a malincuore, 10.000 domande, 10 perché, 10 però, la vita è questa. Infatti io quando ero ragazzo mi avevo sempre questo quesito, diciamo così. Dicevo sempre, perché lottiamo tanto se poi non serve a nulla, perché tanto dobbiamo morire? E non potevo darvi mai una risposta, perché sono cose più grandi di noi che una risposta non ti puoi dare. E purtroppo uno deve lottare siccome è in vita, poi purtroppo ognuno di noi ci deve lasciare. Dobbiamo lasciare questo terreno e andare in cielo, quindi è un discorso un po', diciamo, un po' così, però diciamo che è valido come discorso. E purtroppo si conosce in vita, bisogna lottare, sa. Gianni, il tuo discorso non fa una piega già. Non fa una piega, perché logicamente noi siamo di passaggio, noi siamo soltanto di passaggio, spetta a noi crearci la giornata, la settimana, il mese e l'anno, spetta a noi, conducela. Io quando sento delle persone bestemmiare, maledire altre persone, sparlare, giudicare, cioè poi alla fine dei conti non ha nessun valore, perché non ha nessun valore, cioè la vita nostra è dipende da noi, almeno io posso dire soltanto questo per esperienza, dipende soltanto esclusivamente da noi. Dice, mi hanno messo occhio, mi hanno questo, mi hanno quell'altro, ma non è vero, non è assolutamente vero. Noi siamo nati per battagliare, capito? Per battagliare, la nostra vita è nata per battagliare, per affrontare le sofferenze, per affrontare tutto il resto, e dipende solo, esclusivamente da noi. Come affrontarle giornalmente, certo. certo che è così. Purtroppo ci sono dei momenti magari che non ce la fai perché ti capita una cosa, poi ci te ne capita un'altra, poi te ne capita un'altra ancora e alla fine ti vedi proprio azzerato, non sai più che pesci, molte volte si perde anche tutta la voglia di lottare, ci si lascia andare, c'è poco da fare, e molta gente si uccide anche perché proprio per queste cose qua, se comincia, perdi il lavoro, perdi la moglie, perché magari sai, il lavoro tante volte unisce anche la coppia, perché se perdi il lavoro comincia a mancare i soldi, non puoi pagare quello, non puoi pagare l'altro, comincia la coppia a bisticciare e comincia anche la moglie che ti manda in quel paese. E poi magari le amicizie, quando ti vengono i soldi e cose, ti cercano più, non ti cercano più perché non c'è lavoro. Guarda che succede veramente questa cosa qui, non è che sto solo ipotizzando, a molta gente succede. Sì, no. Oh già, quello che hai detto è pura realtà. È pura realtà, non è che abbi detto ho letto una favola e quindi te la sto ripetendo. No, è pura favola, è pura realtà. Ma purtroppo diciamo non pensiamo che in ogni famiglia ci sia tutto rose e fiori. In ogni famiglia ci sono le difficoltà. Ci sono di tutto e di più, magari adesso in questi periodi che il lavoro scarseggia, la famiglia si trova in difficoltà, dove ci sono bambini, dove i bambini hanno bisogno, dove devi stringere, ma il lavoro non c'è, allora incominci a macinare la testa, incominci l'umore, diciamo non è più quello di quando una famiglia è stabile e quant'altro. E quindi lì dipende tutta questione di forza e di volontà. Tu mi dirai, ma quanto deve passare questa forza di volontà? Lo so, è dura, però bisogna affrontarla, mai arrendersi, perché sì, ci sono casi deboli, che affrontano per dire per un mese, due mesi, un anno, poi si vedono lì abbattuti perché si vedono tutto contro, vedono che non c'è un miglioramento. E allora l'unica soluzione, diciamo, per loro è farla finita. Però cioè, adesso magari dipende da carattere, dipende da modo di pensare, da modo di fare. Secondo me uno spiraglio si trova sempre, perché si trova. Il brutto quando uno si butta a terra non vede altro che solo esclusivamente una soluzione di poterla farla finita. Ma in questo caso farla finita stai andando, diciamo, a procurare alla famiglia, diciamo, ancora dei dolori, diciamo, e delle difficoltà maggiori. Adesso, ma in quel momento lì magari non ci si pensa a queste cose. Quando si sente annullato da tutto, da tutti, dal lavoro, dalla famiglia, si sente talmente solo che non ha più la forza di continuare, capito? Poi ci sono dei tipi di carattere, magari uno è più debole, l'altro è più forte, riesce a affrontare meglio la situazione. Però sono sempre situazioni molto, diciamo, molto delicate. C'è chi li affronta l'amore e chi li affronta nell'altro, c'è quello che magari non si vergogna se il capocondominio gli suona il campanello e gli dice guarda che tu mi devi dare 4 mesi il condominio per dire che non mi è pagato, ma anche se non c'è lavoro io mi voglio lo stesso, se no mettiamo l'avvocato, questo e quell'altro. C'è quello che se ne frega, dice e faccia quello che vuoi. E c'è quello invece che si abbiglia a curi, che ha una bella figura, non posso camminare più a testa alta, si mette questi problemi, capito? Sì, e beh, da quel lato lì si trova, diciamo, tipo un cagnolino abbandonato, bastonato. E c'è chi sì. Nel fan peso c'è chi la prende così con filosofia, dice ma s'arrangi, faccia quello che vuole, tanto più di così dove possa andare. Lo so, purtroppo non è semplice, non è facile. Al giorno d'oggi bisogna fare i passi ben precisi, non bisogna avventurarsi perché sono dei tempi molto molto particolari. L'unica nostra speranza è provare a riaspettare dei momenti, diciamo, un po' particolari. Ma io mi ricordo tempi addietro, anni e anni addietro, io quando c'erano bambini piccoli, mi sono trovato in difficoltà, mi ho fatto la valigia e sono dovuto andare fuori, la famiglia da sola, perché? Perché per questioni di lavoro, perché la famiglia aveva bisogno, insomma, ma in questo caso molti hanno scelto questa strada, diciamo, per poter mandare avanti la famiglia. Lasciamo perdere, diciamo, le persone che al momento, diciamo, che ne approfittano, poi quando è passato tutto non ti guardano in faccia, vabbè, ma queste sono cose, diciamo, che sono sempre esistite e sempre esisteranno, ma c'è di tutto e di più, purtroppo è un gran rebus. Oh, ci sei ancora, sì. Io sono qua, comunque sia quello che stai dicendo. Più che altro è giusto. Il problema sai cos'è? Mi trovo una cosa, quando ti capita un problema di questo genere, non contano né parenti né amici, perché te la mettono in culo. Quando c'è i soldi ti chiamano, quando soldi non li hai, non ti chiamerà nessuno, sei in mezzo alla cacca e la cacca rimarrai. È capitato a me e poi molto opportuno mi ha pensato anche con una persona che diceva non sai Antonio, io che ho il suo adesso non mi ho più, cosa vuoi? A un certo punto dicevo, ma l'ha fatto a me, quindi a un certo punto cosa vuoi da me? Avanti, i tempi sono cambiati, quindi così purtroppo non può fare niente su queste cose, c'è crisi e quindi il ricco ormai era quello che adesso non è più, quindi è i miei gusti, cioè i beni miei più che altro, e quindi io non posso lamentare, io grazie a Dio mi arrangio. Però sai cosa ho capito, no, a un certo punto mandare a cagare tutti. Se una persona viene e mi chiede a me ho bisogno, vado, glielo faccio, ma se ha soldi mi dispiace, è morto, se non paga non prende, il discorso è quello, perché ormai bisogna fare così, questo c'è di gente così che c'è anche voi i lavori e non li vuole pagare, invece con i poveri ti hanno anche per dire 5-10 euro, tanto me, sono pronti, 5 euro, per quello che mi hai fatto, hai capito? Ah, per me è così. Ehi, capatone, io lo so, però non è giusto. Però non è giusto scacciarsi uno con l'altro, o farsi la guerra uno con l'altro, non è giusto, perché poi alla fine dei conti farsi la guerra uno con l'altro porta sempre, diciamo, alla distruzione, porta, diciamo, alla disperazione, porta questo e quest'altro. Sì, che diciamo dà fastidio, perché dà fastidio quando uno cerca di speculare, quando uno cerca di approfittare e quant'altro. Questo chiaramente d'accordo, dà fastidio, però diciamo ricordiamoci bene che uno con l'altro può avere sempre bisogno. E io non dico che uno debba avere per forza bisogno dell'atto finanziario, ma può anche aver bisogno anche di altre cose, capito? Non è detto che uno, per dire, per forza ti devo dare dei soldi per aiutarti o questo e quest'altro. Ci sono anche altri metodi, altre soluzioni, senza andare a pensare che perché tu hai un lavoro, tu hai soldi, Oh, mi devi... Come? Sono quasi per mano 25, va bene. Capito, è un casino, è brutto, dai, mi devo lasciare. Vi devo lasciare, ce la risentiamo nel prossimo. Ciao Gianni, ciao, buon cuore, bene già. Allora, ciao Sandro. Ogni tanto il discorso sì che si fa. Comunque volevo concludere col fatto che in certi momenti serve anche credere in qualcuno, credere in qualcosa, avere un po', credere, diciamo, nella religione, avere un punto d'appiglio. Adesso detto questo ti saluto e ti auguro una buona passeggiata, penso che devi andare a portare il cane. Avanti, buon po'. Non è capitato così. La gente che ha soldi non ti caga niente. Quando hanno bisogno di cosa, allora ti chiamano subito, questo è quello. Non è capitato con tutti. Nel momento opportuno c'hai bisogno, ti chiamano tutti. Quando non ho bisogno non ti chiamano per niente. Ma meno male se va il momento opportuno per tutti. Chi ha soldi mette la cacca, chi non ha soldi. Quindi si deve arrangiare, a un certo punto mi dispiace per quelli che come me si deve arrangiare, però c'è più che altro la non la solitudine adesso, grazie a Dio, ci si aiuta uno con l'altro, però i ricchi stanno diventando poveri, è quello che volevo io, almeno sanno cosa vuol dire inchinarsi la china. A un certo punto, come adesso, allora che non cambiano le cose, spero solamente che cambiano le cose, che si mettono tutti quanti, non ricchi, ma uguale tutto per tutti, che abbiano tutti un lavoro, che abbiano tutti un guadagno, e almeno non si sviluppa l'uno con l'altro, perché a volte capita che, come adesso, la verità, che uno è più alto, l'altro è più basso. Non è che mondo al mondo c'è sempre stato il più ricco e il più povero, solo che chi è ricco non dovrebbe essere così avido, aiutare anche chi ha bisogno, invece i ricchi sono avidi solitamente, sono molto avidi nei confronti delle persone che hanno bisogno, capito? E purtroppo è così, e cura a noi che siamo una di buona di Giais. Vabbè, comunque adesso già la cosa è cambiata, ho visto, quindi stanno cominciando a imparare i ricchi a essere più poveri, te lo dico io. Quindi a un certo punto non ho imparato. Prima era il discorso dell'inverso. Si arricchivano. E che se ne frega, diceva quello. Io vado nel davanti, altro di non ci vado più nessuno. Quindi hanno imparato un pochettino a cambiare le cose. Perlomeno, meno male, era ora. Ci vanno al ristorante a voi, sono sempre le persone che vanno al ristorante, anche 2, 3, 4 volte alla settimana, i rappresentanti, per dire, vanno sempre al ristorante a mangiare, quelli che vengono da Cagliari eccetera eccetera, sempre al ristorante, cercheranno del ristorante dove si paga meno magari, però ci vanno, tipo quelli dei cinesi che si paga 10 euro e ti crepano a pasti. Ti mangi pesce, mangi primo, mangi secondo, mangi gelato, tutto quanto con il cibo. La sera di cericino, con 18, dipende da quello che mangi. Però ti gripa, è una roba buona. D'accordo con te, guarda. C'è un altro problema, che adesso mi piace piuttosto, che lavorava parecchio, per dire, fino a 2 anni fa, adesso ormai è morto, non hai capito, quindi sta chiedendo come ristorante. E la scala, perché via di tutti, passano di tutti, tu dicevi un pranzo, beh, lo sai che li sta chiedendo come ristorante, quindi figura che tu, sono cambiate le cose, ho già, te lo dicendo, sono cambiate un po' le cose. Se vuoi lavorare adesso o fai pizza da sponto, che è meglio, o fai qualcosa al ristorante che te lo porti a casa, come per dire, nelle volte che so, ti pigliano la bassa alta per dire. Poi una volta fa un sonno, con te, io c'io, quindi te la porti a casa e te la mangi, mi dai una fuga a me per dire, oppure le pizze, quello che è. Tutti quelli stanno facendo lì, ma il ristorante è morto, il ristorante Sassari è morto, non c'è più. Nessuno ci va più a spendere 12 euro per dire, per fare un pranzo, che cosa, no, non esiste più. Un 12 euro, sai cosa c'è, un bel roba, che va nei volti, a tutti i dini. Auguriamoci che Dio ci lascia la salute e poi già c'è del tempo, si può trovare lavoro. Diciamo, io mi ritengo fortunato perché, però ho visto di gente che da amico è diventata proprio povera, cioè da fare una vita molto agiata, con macchinoni, questo e quell'altro, di colpo. Fa la vita per un impiego di lei, non è che sei fortunato, ho già la verità, perché non sei fortunato per niente. Non ti sei fortunato per il momento. Se non si capitava per dire che dovessero aumentare le tasse con il genere, la gente non ci va più a comprare dove sei tu, per dire, va a parte, trova magari un altro negozio. È un casino, capito? Cos'è quello? Quella è meglio, è tutto, non lo si può dire. Questa metà la roba, non è che fare la copa che non è messa. Di quello che abbiamo è morto, non ci fa più nessuno, per dire. Il discorso è quello, bisogna fare una scelta, diceva quello. Quindi, sei fortunato per il momento, e mi sta anche bene, anzi sono contento. Si può dire nulla, ma devi aspettare, se continua così le cose e se le cose cambiano, se non va più nessuno a comprare niente, già, anche se tu sei di lì, per dire, c'è un altro negozio, ma ti dice, beh, la prodotta alimentare, per dire, quello costa 50, io lo vendo 20, lo vendo subito 20, anche se non fanno così, per dire cosa stavo comprando, il discorso è quello, ma stanno tutti la fame, è come capita, quindi ci dobbiamo comprare quello che abbiamo, di più non possiamo fare, per il momento. Lavorare, che avevo banana che c'è un solo la voglia. Volevo fare un canale notturno stanotte, ma non c'è nessuno e quindi siamo rimasti solo in due e gli altri sono un comodo che rimangano a svegli solo per ascoltare. Cosa potevi cagliere? Io tanto vado a trombare, poi se vuoi venire con me andiamo a Coda, a Brasilia e mi riverto fino alle 5 del mattino, poi se vuoi... Siamo tutto cosa, diavolo cosa fare per Pasqua. Io c'entro loro a giocarmi e non voglio divertire stanotte, vengono a prendere a mezzo, ma figurati, quindi sono brindi, sono a piacere in culo. No, io sono ragazzo, sì, sono sposato felicemente, quindi non ho bisogno. Andare, allora, buon divertimento. Allora, mi raccomando, metti la farmacia perché prendi contagio. La farmacia, no, ma mi ha capito proprio male, mi ha capito. Guarda che questo non sono sposato, però, grazie a Dio, ci tengo quello che c'ho. C'ho le ragazze che conosco e mi diverto, capito, più che altro. Bevo una birra, quello che è, possiamo fare una tappa per dire, ma... Non è che la forza fare sesso salate, no, ce la faccio. Quindi, già mi conosci, non è che non mi conosci. Mi diverto e basta, ne approfitto. E dal tuo punto di vista, io c'è solo un livello e io rispetto a quelli di tutti. A chi non piacerebbe farlo, ma se non è serio. Nel senso che se sposato tu sei libero ancora, sei fidanzato per basta. Certo, per 12 anni, figurati, vedi tu. Però che io ne conosco le persone che frequento e posso per mettermi sopra il paccioccio per dire anche nulla, cosa cazzo me ne frega. Cosa fai? Io abitavo io, quindi c'eravamo di fronte. Però non è un suo problema, capito? Se vuole fare una domanda non la faccio, non è che devo stare a chiedere permesso. Perché per esempio, faccio una cena, un pranzo, quello che vuoi e mi diverto, non c'è problema. Allora, buona ci sentiamo e buona Pasqua se non ci sentiamo domani, dai. E pertanto, va, andiamo al limite, se mi rialzo aperto domani, sono alla domani, dove ti sei? Dipende da quella ragazza adesso. Sentiamo, se mi stancano già sentiamo un altro giorno, ciao.